Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e buon anno a tutti gli ascoltatori da parte del sottoscritto. I temi di questa giornata economico-finanziaria sono in parte temi che ci trasciniamo dalla fine barra inizio dell'anno. Mi riferisco alla vicenda Alitalia, smentite oggi sia da parte della compagnia di bandiera che di Air France, ma il tema c'è tutto. Ha iniziato a crescere, come dicevo, verso la fine dell'anno, con un'ipotesi smentita poi ufficialmente sia dalle Ferrovie dello Stato che dall'Italia, di addirittura un'acquisizione da parte dell'FS di Alitalia, complice l'incapacità nel medio termine da parte di Alitalia di reggere la concorrenza dell'alta velocità sulla Milano-Roma, quando verrà portata a 2 ore e mezza la lunghezza della tratta. E poi è continuata invece con l'ipotesi di invece un takeover, una acquisizione da parte di Air France. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. L'altro tema che regge, mi rendo conto che è un tema apparentemente tecnico, va sotto il nome di Basilea 3, è in sostanza un insieme di nuovi regolamenti che si applicheranno alle banche e che hanno un impatto immediato poi soprattutto sui piccolissimi imprenditori, perché porta delle regole più stringenti, più dure, se un'impresa è piccola soprattutto, nell'erogare il credito. O meglio, sono regole più dure per le banche che devono, in base alla qualità del soggetto a cui erogano il credito, accantonare più o meno soldi, dette in maniera un po' brutale, ma per farsi capire. C'è la conferma che Basilea 3, che molti temevano, a mio avviso a ragione, avrebbe avuto un impatto prociclico e quindi peggiorato la crisi in corso, rendendo ancora più difficile per le imprese italiane ottenere credito. Ci sono uscite anche nelle ultime settimane indagini, dati in cui emerge come in Italia l'accesso al credito sia tra i più difficili dell'Unione Europea. Ma detto ciò, per fortuna Basilea 3 verrà applicata, ma verrà applicata in maniera morbida e graduale, quindi entreranno in vigore le norme come previsto a partire dal 1 gennaio 2015, ma con una copertura al 60%, poi gradualmente elevata al 10%, e viene anche allargata la tipologia di prodotti che potranno essere inclusi in questo cosiddetto tesoretto. Poi ne parleremo. Quello che è importante è che l'approccio sarà graduale, quindi il cosiddetto liquid coverage ratio sarà introdotto in maniera graduale, senza creare scossoni all'organizzazione del sistema bancario e quindi poi al finanziamento delle attività economiche, come chiesto anche dalla Banca d'Italia. Poi parleremo della classifica del Sole 24 Ore sugli amministratori locali e abbiamo chiesto ai vincitori, nel caso specifico sindaco di Salerno De Luca e governatore del Veneto Zaia, il Sole 24 Ore ogni anno pubblica il gradimento degli amministratori locali, di dare qualche consiglio ai politici che si stanno candidando per le elezioni, visto appunto il successo nel gradimento della classifica annuale del Sole 24 Ore. La vicenda Richard Ginori chiude lo storico marchio fiorentino e chiude per un insieme di motivi, forte la protesta dei sindacati e anche del sindaco del comune dove appunto Richard Ginori operava, marchio, ripeto, storico. Ne parleremo subito in apertura. Non è la prima e purtroppo non sarà nemmeno l'ultima chiusura. Non si è riusciti a trovare un accordo per tentare fino alla fine il salvataggio della Richard Ginori. 349-238-6666 come sempre per i vostri SMS e poi anche Facebook. Partiamo con le notizie in breve e partiamo come sempre dalla borsa. borsa che inizia la settimana con un leggero calo, ma devo dire Milano è la migliore tra le borse europee, perde lo 0,28%, Parigi meno 0,80%, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 0,40%, l'America perde lo 0,35%, euro a quota 1,31-1,39 nei confronti del dollaro. Tra i titoli, Milano è tra quelle che perdono meno, perché vanno bene le banche. Monte dei Paschi più 7,90%, ne parleremo nel corso dei mercati. Banco Popolare più 3,90%, Unicredito più 3,30%, più 2,30%, scusate. Popolare Emilia Romagna più 2,15%. Bene anche Intesa San Paolo più 1,90% e la Popolare di Milano più 1,80%, 1,60% in questo momento. Tra i titoli non bancari segnalo ST Microelectronics più 2,60%, A2A più 2,10% e Mediaset più 1,80%, bene anche Exor più 1%. Vi faccio notare che Monte dei Paschi da inizio anno, da praticamente Natale, per essere precisi, ha guadagnato il 33%, e oggi c'è un'intervista del numero uno Viola sul Messaggero con varie dichiarazioni che poi commenteremo, ma insomma il rialzo di oggi è fortissimo, più 7,92%, è vero che il titolo è arrivato ai minimi, ma insomma, più 33% da Natale. Chi perde? Tenaris meno 2,40%, Tods meno 2% come Snam, Autogrill meno 1,80% come Terna e Telecom Italia, l'1,60% lo perde Enel e Atlantia, l'1,40% Eni, ma anche Parmalat, l'1,1% Saipem e Fiat Industrial, lo 0,90% è il calo di Luxottica. E visto che inizio anno rifacciamo il punto anche sull'oro e il petrolio, l'oro è a $1,658, il petrolio è in calo a New York a $92,4 al barile. Sul fronte internazionale, mentre si cerca ancora un difficilissimo accordo, ma insomma sono abbastanza allo stallo, sul cosiddetto baratro o precipizio fiscale in America, oggi sul, appunto si chiama Fiscal Cliff, è intervenuto anche il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, che ha sottolineato che il debito americano deve essere messo su una traiettoria sostenibile. Le autorità americane e le 14 maggiori banche potrebbero annunciare già oggi un accordo comunque per chiudere un'altra disputa, e cioè quella sui pignoramenti. La cosa interessante, perché le banche americane, le 14 maggiori banche americane, starebbero per patteggiare una cifra altissima, apparentemente $10 miliardi, di cui tre, per l'inchiesta in corso, in sostanza sono accusate in molti casi di avere fornito mutui subprime, cioè di aver prestato soldi a persone ad alto rischio senza spiegare bene i termini e la rischiosità di questi mutui. Dicevo, un patteggiamento di $10 miliardi complessivamente, di cui 3 miliardi e 750 dovrebbero essere milioni, dovrebbero essere distribuiti a chi ha perso la casa a causa di pratiche scorrette di pignoramento nel 2009 e nel 2010. I restanti 6 miliardi dovrebbero invece andare a chi è ora a rischio di perdere la propria casa. L'accordo dovrebbe essere firmato da tutti i big del credito americano, inclusa JP Morgan, Bank of America e Citigroup. E già degli effetti ci sono, perché Bank of America, per esempio, pagherà a Fannie Mae, vi ricordate Fannie Mae, Freddie Mac, comunque 3,6 miliardi di dollari per chiudere il contenzioso su operazioni di vendita di mutui ipotecari. Prevede anche l'accordo riacquisto di mutui per 6,750 miliardi venduti sia a Fannie Mae che anche a Freddie Mac, ma in questo caso riguarda soprattutto Fannie Mae. E devo dire che sto guardando le notizie. Ora è uscita la notizia che le banche americane hanno patteggiato non 10 miliardi ma 8 miliardi e mezzo, poi vedremo come verranno redistribuiti, se verrà mantenuto la cifra di 3 miliardi e 750 milioni per chi ha perso la casa a causa di pratiche scorrette di pignoramento tra il 2009 e il 2010, e poi la quota mancante verrà tenuta, la quota avanzante verrà tenuta come fondo per chi è a rischio di perdere adesso la propria casa. Ma è una sentenza importante perché diciamo, patteggiando, le banche ammettono in qualche modo la loro colpevolezza nell'avere avuto pratiche scorrette di pignoramento. L'accusa di fondo è non aver avvisato i clienti dei rischi che correvano con questi mutui subprime. Veniamo all'Italia, lo spread è a 280 punti, il rendimento è leggermente in rialzo al 4,32%, di spread oggi ha parlato anche il Papa, perché Benedetto XVI nel suo discorso al corpo diplomatico ha detto se nell'attuale crisi economica si combatte lo spread finanziario bisogna combattere anche quello del benessere sociale, lo spread, o meglio le distanze, spread questo vuol dire... La differenza tra i ricchi sempre più ricchi e molti irrimediabilmente sempre più poveri. Il rapporto di Credit Suisse First Boston nel rapporto 2013 Global Outlook interviene sui temi della politica italiana. Dice che una vittoria del centro-sinistra, la banca svizzera lo afferma in questo rapporto, nelle prossime elezioni di un successivo governo di coalizione con i centristi di Monti non rappresenterebbe dei rischi per la stabilità di bilancio in Italia, e davanti a questo esito elettorale la reazione dei mercati dovrebbe essere neutrale se non addirittura moderatamente positiva. A questo proposito lasciate che vi ricordi, lo faremo anche nelle prossime puntate, che siamo sotto par condicio e quindi non posso stare a spiegare tutti i meccanismi della par condicio che vanno a calcolare nell'arco di una settimana lo spazio dato dall'intera radio, non solo da questo programma, ci mancherebbe, ai diversi candidati, quindi liste candidate alle elezioni. Faccio solo notare che la rubrica sugli sprechi non te regge più. Come se la ricordo, sugli specchi della politica diventa un po' più delicata, perché abbiamo bisogno, so che può sembrare paradossale, ma nell'arco di una settimana che anche questo programma abbia usi i riferimenti di qualunque genere, anche sulla vita privata di un soggetto candidato, anche su un'inchiesta giudiziaria, che siano equilibrati. Mi rendo conto che è paradossale per alcuni versi, perché si tratta di notizie di cronaca, non di notizie di politica, ma tant'è, nella par condicio non fa distinzione. Torniamo invece ai temi di economia e di finanza. Dicevamo di Alitalia e Air France, la smentita di Air France, gruppo franco-olandese, in realtà, perché Air France KLM non ha iniziato alcuna negoziazione, e l'amministratore delegato della compagnia francese, Alexandre de Juniac, ha detto: i mezzi che noi abbiamo a disposizione sono molto limitati in questo momento, cosa che non ci autorizza a fare molte operazioni. Nel frattempo continua a diminuire, escono i dati anche relativi al 2007-2011, continua a diminuire la quota di utilizzo di vettori italiani da parte di passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti della penisola. Solo tra 2007 e 2011 è scesa di 16 punti percentuali, ossia fatto 100 il numero di passeggeri che volavano dall'Italia o per l'Italia era nel 2007 di 56 il numero di passeggeri che sceglievano l'Italia, nel 2011 è scesa al 40%, cioè 40, da 56 passeggeri ogni 100 a 40 passeggeri ogni 100, e quindi meno della metà dei passeggeri arrivati e partiti da aeroporti italiani sceglie compagnie italiane. Nel frattempo il traffico aereo ha segnato una lieve ricrescita nel 2011 in Italia, un più 0,2, già era meglio era andato nel 2010 più 3%, ma il livello del traffico aereo comunque è ancora inferiore di un 6% rispetto ai livelli del 2007, cioè il livello da tutti l'anno da tutti battezzato pre-crisi. Ancora una notizia che riguarda sempre la vicenda all'Italia Air France. La banca d'affari Lazard, citata con francese, la cosiddetta mediobanca francese, citata come da varie indiscrezioni di stampa come possibile advisor, quindi consulente, chi avrebbe gestito l'operazione di acquisto di Air France KLM su Alitalia, ha detto di non poter fare commenti su questa questione. Noi dalla vicenda all'Italia Air France adesso, come promesso, ci occupiamo invece della classifica stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori, quindi sindaci, presidenti di provincia e governatori di regione. 349-238-6666 per gli sms e Facebook. Vincenzo De Luca, capo di una coalizione di centrosinistra a Salerno, il sindaco più amato, e il sondaggio Governance Poll 2012 di IPR Marketing per il Sole 24 Ore come ogni anno, dicevo il 72% dei consensi ha avuto De Luca. Sul podio lo seguono il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e quello di Agrigento Zambutto, al quarto posto il sindaco di Verona Tosi. Le ultime tre posizioni vanno invece al sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, a quello di Messina Giuseppe Buzzanca e a quello di Foggia Giovanni Battista Mongelli. Fra i governatori la palma va al toscano Enrico Rossi al 59%, che precede di un punto il gradimento di Luca Zaia al 58%. Terzo posto per il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani, poi quello delle Marche spacca. In coda invece all'ultimo posto Renzo Tondo, governatore del Friuli Venezia Giulia, Roberto Cota del Piemonte, Giovanni Chiodo dell'Abruzzo e Ugo Cappellacci della Sardegna. E visto che siamo in par condicio abbiamo realizzato, l'ha fatto la nostra Adriana Fracchia, due interviste per chiedere sostanzialmente ai vincitori di questa classifica che consigli possono dare ai candidati alle politiche. Chiaro che nel caso di Luca Zaia, lui è stato ministro, quindi conosce bene la materia, ma anche nel caso di De Luca è un politico di lungo corso. Sentiamo Luca Zaia appunto al microfono della nostra Adriana Fracchia. Al di là della soddisfazione, qualche consiglio? È un dato che mi dà soddisfazione, è frutto del risultato non solo del mio lavoro ma di tutta la mia squadra. Io ho fatto una scelta di campo dal primo giorno della mia elezione, cioè 2 anni e mezzo fa, di non occuparmi più di fatti che non c'entrano nulla con la mia amministrazione, per cui magari si rinuncia sempre alle compassate televisive o le ospitate e ci si occupa pancia a terra, lavorando sodo, dei problemi dei veneti. Quali sono secondo lei i provvedimenti, le iniziative che l'hanno resa più popolare? Beh, guardi, noi abbiamo dato vita a un'autentica rivoluzione. La mia è l'unica regione che ha approvato una legge elettorale che prevede la preferenza e non più i listini bloccati. Abbiamo ridotto per primi i consiglieri, abbiamo fatto un sacco di nuove riforme, tra le quali eliminare il vitalizio. E sicuramente i cittadini mi hanno apprezzato per il commissariamento che mi è stato dato nella gestione della quella tragica alluvione che il Veneto ha avuto. Ecco, a fronte di tanti consigli regionali in questo periodo inquisiti e con molti scheletri nell'armadio, per quanto riguarda la sua presidenza, quali sono state le politiche virtuose? Ma 360 gradi, male non fare e paura non avere, questo è sempre stato il mio slogan, per cui riforme, controllo della spesa e lotta ai costi della politica e soprattutto rigore, rigore, rigore. Ecco, rigore tra l'altro in un momento in cui, come molti amministratori lamentano, non arriva più un euro da Roma. Beh, guardi, il problema dei finanziamenti è un problema reale per regioni virtuose come la mia che possono dire che se si applicasse la spesa pubblica del Veneto a tutta Italia avrebbero a Roma un risparmio di 28 miliardi di euro e non sono pochi. noi come veneti comunque lasciamo a Roma 16 miliardi di tasse dei veneti che restano direttamente a Roma tutti gli anni. Questo provvedimento dell'IMU come lo vede lei? Questa tassa è da lasciare o da eliminare? Guardi, lo chiede un veneto che sa di lasciare sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 miliardi all'anno di tasse dei veneti, per cui noi l'abbiamo già abbondantemente pagato questo servizio a livello nazionale, per dire che l'IMU per noi, come tante altre tasse, possono essere eliminate, debbono essere eliminate con un'unica soluzione: far pagare chi sta sprecando. Guardi, io ho un'altra impressione, che si facciano le leggi sicuramente sempre più punitive, ma sempre per gli stessi, e poi ci sia sempre chi spreca e ci ingrassa come prima. Una ricetta per governare bene le regioni, secondo lei? Beh, che è quello di fare il lavoro onestamente, dedicarsi anima e corpo, non avere distrazioni, ovvero dedicarsi a politica, partiti e segreterie, perché i governatori debbono fare i governatori. Scrive un ascoltatore: no, la par condicio anche a Focus Economia no. Invece sì, la par condicio si applica a tutto, a tutti i programmi di informazione. Ed ecco perché, comunque, fermo restando che tra Enrico Rossi, arrivato primo col 59%, e Luca Zai, arrivato secondo col 58%, c'è uno scarto veramente minimo. Quindi da un punto di vista giornalistico c'è tutta l'intervista a Zai, però ragazzi, le leggi sono leggi, si rispettano. Il primo, il sindaco di Salerno, primo tra i sindaci, sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, anche lui, che effetto gli ha fatto essere il primo cittadino al sud, tra l'altro. E poi qualche consiglio ai politici, ai sindaci, chi si vuole candidare. Ti dà incoraggiamento a lavorare per il futuro e mi dà un sentimento di gratitudine nei confronti dei miei concittadini che apprezzano gli sforzi immani che stiamo facendo in un momento nel quale non arriva più un euro da Roma e a volte non hai neanche i soldi per pagare le bollette dell'Enel, e quindi mantenere in piedi i servizi sociali, l'aiuto alle persone più deboli, i programmi di investimento è davvero un grande miracolo. Quindi un bel incoraggiamento ad andare avanti al nostro lavoro, condividendo ovviamente in pieno la difficoltà e la fatica di tutti gli amministratori d'Italia, che chi più chi meno sono oggi in grandissima difficoltà. Chi è impegnato in un comune si trova collocato nell'ultimo anello della catena istituzionale, quello oltre il quale non c'è più niente. Un sindaco non può scaricare responsabilità su nessuno. Puoi dire ovviamente, come abbiamo detto noi, che quello che arriva di tassazione in più arriva direttamente dal governo o dalla regione, come è giusto che sia, però è evidente che tu alla lunga non puoi scaricare su nessun altro, ti devi misurare con la tua fatica e con la tua capacità di produrre risultati. In un lavoro appassionato, innanzitutto di amore per la propria comunità, di rispetto per la propria comunità, ma ripeto, in un contesto di difficoltà che vale per tutti, dal primo all'ultimo dei colleghi sindaci, e cercano di produrre qualche risultato concreto. Noi abbiamo tre o quattro cose che caratterizzano la nostra attività: il primato nella rete di asili nido, primato nella raccolta differenziata e nelle politiche ambientali, nella trasformazione urbana e nella grande architettura, e mi consenta di dire anche abbiamo un primato che non si vede: siamo un comune capoluogo che non ha neanche un'auto blu. Zero, ci tengo a sottolinearlo, e forse hanno apprezzato anche questo i miei concittadini. Poi avranno apprezzato anche, come dire, la propensione a dire la verità al di là delle bandiere di partito. Insomma, mi sembra che al di là della par condicio, che vedo che molti ascoltatori non accettano, ma ripeto, la legge è legge, mi sembra che ci siano molti elementi simili da questo punto di vista sul fronte dell'assoluta necessità di avere, sia come sindaco sia come governatore, un'attenzione ai costi della politica. In questo senso la rubrica che noi abbiamo non sospeso, adesso stiamo cercando di capire come gestirla in regime di par condicio, ma dico, la dice lunga, cioè sia Zaia che De Luca hanno avuto un'attenzione molto forte ai costi della politica, alla trasparenza nella comunicazione con il loro corpo elettorale, e poi anche opere concrete. Quando sentiamo De Luca dire che sostanzialmente primato anche nella classifica del sole sugli asili nido, vuol dire che certe cose si possono fare al nord, al centro e al sud, non c'è nessuna legge della natura che lo impedisca. Però adesso vorrei passare, uscire dalla par condicio e passare a un tema sicuramente più positivo. È difficile trovare temi così positivi in questo periodo, ma insomma, Basilea 3. Basilea 3 è un insieme, lo ricordavamo prima, quell'insieme di regole che dovrebbero, anzi che le banche dovranno seguire per i cosiddetti standard di liquidità. Liquid Coverage Ratio. La buona notizia è che questi criteri, che avrebbero rischiato di penalizzare soprattutto le piccole imprese italiane, non solo quelle italiane, ma le piccole, verranno applicati in maniera molto molto diluita. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Stefano Manzocchi, che è direttore del LUIS Lab, docente di economia internazionale all'Università di Perugia. Buonasera professore. Buonasera. Io l'ho spiegata così, in maniera forse un po' troppo semplice. In realtà su questo abbiamo preparato una scheda, perché so che può apparire un tema tecnico, ma poi quando il piccolo imprenditore, l'artigiano che ha un SRL o qualunque altro tipo di società va in banca a chiedere soldi, la banca, al di là dell'atteggiamento, della capacità di valutare a livello anche più soggettivo l'affidabilità del credito, dovrà applicare le regole di Basilea, già applica Basilea 2, le regole di Basilea 3. Il rischio di penalizzazione era molto forte per tutte le piccole e medie imprese, come racconta appunto questa scheda. Avvio graduale e richieste meno severe. È la versione soft delle regole di Basilea 3, che nelle intenzioni di banche centrali e autorità di vigilanza dovrebbe scongiurare impatti traumatici sull'attività economica e sui finanziamenti alle imprese. Tutto ruota intorno al cosiddetto Liquidity Coverage Ratio, calcolato su un tesoretto di asset liquidi e di alta qualità, di cui le banche saranno obbligate a disporre per essere in grado di resistere a fasi di turbolenze sui mercati. A partire dal 2015, questi asset pregiati dovranno essere pari al 60% della liquidità necessaria per far fronte a 30 giorni in situazione di stress finanziario. La soglia salirà poi del 10% l'anno, fino a raggiungere il 100% nel 2019. Concessioni sono state fatte anche sui prodotti che possono essere classificati come asset ad alta qualità. Non più solo fondi cash, titoli di Stato, riserve presso le banche centrali ed obbligazioni con rating AA. Vengono ora accettati anche alcune tipologie di azioni, obbligazioni societarie con rating di almeno BBB- e mutui ipotecari di alta qualità. Asset che potranno essere conteggiati solo al 50 o al 75% del loro valore, ma che riducono sensibilmente la severità delle prescrizioni. I regolatori hanno così cercato di conciliare l'esigenza, da un lato, di irrobustire il sistema finanziario, dall'altro, di evitare un'ulteriore stretta creditizia. Su quest'ultimo fronte, la situazione rimane infatti molto delicata. Nel 2012, il 22% delle PMI europee ha denunciato un peggioramento delle condizioni creditizie e il quadro italiano risulta tra i più difficili. Lo scorso anno, circa il 50% delle aziende italiane si è vista rifiutare un finanziamento, un dato che si confronta con il 25% della Francia e il 20% della Germania. La CGIA di Mestre ha calcolato che i prestiti alle PMI si sono ridotti in valore assoluto di quasi 40 miliardi di euro, vale a dire una flessione di circa il 4% rispetto al 2011. Allora, professor Manzocchi, dopo andremo più nel dettaglio dopo il metodo della pubblicità, però diciamo una cosa: se ho ben capito, si danno alle banche criteri più larghi per avere un asset di qualità, no? Asset di qualità. Questo nella speranza che le banche non stringano il credito. Ho capito bene? Ah, sì, questa Questa vicenda di Basilea 3 si è intrecciata con la crisi a partire dal 2008, nel senso che ricordiamoci che la crisi parte come finanza e poi diventa economia reale, recessione, eccetera. E quindi si è pensato che la soluzione fosse quella di mettere più vincoli al comportamento delle banche in termini del loro attivo, no? Ora, quello che però è successo è che poi questo ha portato inevitabilmente le banche a essere iperprudenziali e quindi a farlo in maniera anche un po', come dire, cieca, nel senso di non guardare l'effettivo merito di credito di quello che era poi il loro attivo, ma di rifugiarsi se disponibili negli asset più sicuri, più tranquilli. Questo, come dire, cioè posso dirle in maniera un po' brutale, meglio comprare obbligazioni che prestare soldi all'imprenditore, perché certo, questo poi tra l'altro veniva premiato da Basilea 2 e da Basilea 3. Non c'è dubbio, ma attenzione, questo evita alle banche anche di fare il loro mestiere, perché, come dire, non si devono occupare di studiare, di analizzare il merito di credito. Se gli si dice che improvvisamente le obbligazioni italiane valgono meno, sono più rischiose, si comprano i bund e lì finisce. Sì, fuga da New York o fuga dalle banche per le imprese, questa base potevamo utilizzarla forse un po' troppo punitiva visto l'allargamento che ha deciso l'Unione Europea, ma il tema resta tutto: utilizzeranno le banche questa nuova possibilità di essere meno dure con i loro clienti? Tra l'altro il governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, ha detto che ora c'è un vero standard di liquidità, l'accordo è molto significativo, per la prima volta abbiamo uno standard, un vero standard minimo globale per la liquidità delle banche, cioè l'obiettivo è che le banche abbiano abbastanza soldi liquidi in cascina nel caso di uno stress da sostenere, cioè non ci si può permettere che il sistema bancario, anche solo una grossa banca, non regga il colpo. Il problema però successivo è, bene, se tu obblighi le banche a accantonare troppa liquidità buona, queste non presteranno più un soldo o molto meno, soprattutto alle imprese più piccole, piccolissime, quelle meno visibili, con meno asset. E anche la Banca d'Italia su questo dà un commento positivo. Allora, professor Manzocchi, in realtà lo faranno? Berrà il cavallo l'acqua? Ma guardi, intanto se non si fosse raggiunto questo compromesso, la sensazione è che Basilea 3 sarebbe stata accantonata per il momento, perché gli anglosassoni non avevano alcuna intenzione di accettare la rigidità dell'accordo iniziale. E meno male, meno male. Esattamente. Ora, il punto è molto semplice, che le regole certo servono, ma nel sistema bancario quello che serve soprattutto è la capacità dei regolatori e delle banche di fare il loro mestiere. Mi spiego meglio. Se le banche hanno l'incentivo a comportarsi come hanno fatto per anni da SGR, cioè semplicemente trasformare i depositi dei clienti in investimenti finanziari puri e non in prestiti alle imprese, possiamo, come dire, inventarci qualsiasi moral suasion, qualsiasi regola, ma le banche continueranno a occuparsi solo di prodotti finanziari. Lo stesso, possiamo mettere tutte le regole che vogliamo, ma qualsiasi asset in una fase di profonda crisi finanziaria diventa illiquido, quindi, come dire, possiamo ridurci all'oro come unico investimento che potrebbe essere liquidato in fasi di crisi e di sfiducia tra le controparti, no? Quindi il punto è questo, che le banche devono avere gli incentivi a fare il loro mestiere, che vuol dire sporcarsi le mani, o io direi invece divertirsi e ingegnarsi a capire qual è il merito di credito delle imprese, cioè le loro prospettive sui mercati, il loro capitale umano, la loro capacità innovativa, le loro reti di distribuzione, eccetera. Invece i regolatori e la supervisione bancaria, quindi le banche centrali per il momento, in attesa poi che tutto passi, almeno per le grandi banche, alla BCE, devono andare a studiare, come dire, non solo i libri contabili, ma le strategie e, come dire, i portafogli degli attivi delle banche in termini dei bilanci delle imprese a cui prestano, delle linee di sviluppo che hanno. Per il resto, se questo non viene fatto, le regole da sole non servono, ecco. Sì, quindi lei dice, da un lato attenzione, perché se tu come banca hai fatto in questi anni, soprattutto la banca finanziaria, cioè raccoglievi risparmio ma poi non lo impiegavi tanto o soprattutto per finanziare l'economia reale, che vuol dire poi far crescere un paese complessivamente, no? Certo. Ma lo impiegavi per investimenti finanziari ad alto rischio, l'abbiamo visto, le banche italiane forse meno, ma comunque finanziari, ti stai disabituando a fare la banca del territorio, si chiamerebbe una volta, cioè quella che raccoglie sul territorio dei risparmi e poi li reinveste sul territorio finanziando imprese che a loro volta creano ricchezza, e quindi il circolo è virtuoso. Dall'altro lato le dice attenzione, perché rischia di poter essere sempre comunque una scusa quella dell'asset di qualità. Ha ragione chi scrive che per Fondiere Sai, per il San Raffaele, le banche hanno trovato i soldi, come no, 1,6 miliardi, un miliardo, per cui quando uno ha il salotto giusto arriva anche il denaro corretto, mettiamola così. E in aggiunta, sono d'accordo con lei, l'importante è che poi uno abbia anche le competenze all'interno per valutare. È un lavoro più difficile, cioè è più facile comprare un bund tedesco o un'obbligazione francese, certo, che non prestare i soldi a un piccolo imprenditore marchigiano. Esattamente, e questo è indubbio, però il lavoro sta proprio lì, mettiamola così, il valore aggiunto è quello, perché investire in bund sono capace anch'io, allora raccolgo i risparmi dei cittadini, investo in bund, è morta lì. Altra cosa è valutare che quell'imprenditore, pur in difficoltà, ha un bel progetto di sviluppo, è internazionalizzato, è legato a linee di credito, è legato alle filiere, oppure valutare anche tu curi il suo progetto. Dopodiché, se non ha progetti, non ha investimenti, vuole solo soldi per pagare i dipendenti, sì, io sono d'accordo con la banca, beh, stai prudente, non è che gli devi regalare questi soldi. Grazie a Stefano Manzocchi, appunto direttore del LUIS Lab e professore di economia internazionale all'Università di Perugia. Grazie. Nel 2012 solo il 50% delle piccole e medie imprese italiane che ha chiesto un finanziamento lo ha ottenuto, in Francia il 75%, quindi in Italia una su due, in Francia due su tre di quelle che l'hanno chiesto l'hanno ottenuto. In Germania 8 su 10, peggio di noi la Spagna, solo 4 su 10. Ora bisogna capire se il problema è che gli imprenditori francesi, tedeschi chiedono soldi meglio, quindi con progetti più seri, di medio termine, con investimenti veri e non per la cassa corrente, oppure se c'è una ristrettezza tipicamente italiana in questo caso. Meno 4% comunque nel 2012 i prestiti che le piccole e medie imprese hanno ottenuto, la cifra può sembrare poco, il 4%, vuol dire in realtà 38 miliardi e mezzo di lire in meno che sono state erogate dalle banche alle piccole e medie imprese italiane. Per non essere troppo, diciamo, manichei, è anche vero, lo ripeto, che quando un imprenditore viene e chiede soldi senza un investimento o un progetto, la banca, a mio avviso, fa bene a non darglieli. Se, ripeto, se solo perché sei in difficoltà, la banca non è un'operazione di mutuo soccorso, non necessariamente. Altra cosa per dire che tutta questa restrizione del credito è stata dovuta solo alla mancanza di progetti. Ma. E adesso arriviamo anche alla borsa, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, chiaramente che ha chiuso tra le migliori Milano, direi la migliore tra quelle maggiori, meno 0,38%, ma visto che parlavamo di imprese, del rapporto tra imprese e banche, in questo caso non c'entrano le banche, ma registriamo come sempre quando chiude un'impresa, a maggior ragione se è un marchio storico che rappresentava comunque Made in Italy, che oggi la Richard Ginori, vi ricorderete, produce piatti, ceramiche, servizi, era uno dei marchi storici più nobili, alti del nostro paese, è stata dichiarata fallita. Il gruppo che produce porcellane, appunto, ha sede a Sesto Fiorentino, è in liquidazione dalla scorsa primavera, perché il bilancio consuntivo del 2011 aveva registrato perdite superiori allo stesso capitale sociale. Quando tu perdi più del tuo capitale sociale, il destino è obbligato. Il collegio dei liquidatori comunque ha lavorato a una soluzione di un concordato preventivo, perché ha cercato sostanzialmente un soggetto che potesse prendere le attività commerciali e produttive della Riccio Aginori. Si era individuato nella cordata composta dalle aziende Lenox e Apulum, ma evidentemente non si è riuscito a fare nulla, nulla di fatto quindi, e attualmente i 314 lavoratori della Riccio Aginori, che sono già da agosto in cassa integrazione, hanno un futuro ancora più triste. La nostra Anna Marino ha raggiunto il sindaco di Sesto Fiorentino, Gianni Gianassi, che tra l'altro ha detto di essere in contatto continuo con il Ministero dello Sviluppo Economico. La Aginori purtroppo è in una condizione aziendale di grande difficoltà, tant'è che ad oggi i lavoratori sono in cassa integrazione per cessazione dell'attività. La soluzione pareva essere stata trovata attraverso anche una procedura competitiva che i liquidatori hanno fatto, vagliando diverse offerte, tra le quali le due che sono arrivate, diciamo, in finale, hanno consentito a loro di fare una scelta e poi di presentare questa scelta a chi ha il dovere di approvare, di ammettere al concordato preventivo l'azienda. Successivamente ci sarebbe stato il confronto con i creditori per sapere se il profonde veniva messo a disposizione era sufficiente o meno a saldare la partita debitoria, sapendo che in questa partita doveva inserirsi anche lo Stato con l'acquisto del patrimonio museale. Ecco, che cosa è successo? Perché alcuni dicono che non è tutto chiaro, molti avevano ritirato l'istanza di fallimento e c'erano due aziende interessate. Quando c'è stata la procedura di selezione ci sono state fatte due offerte, una dal gruppo Coppo San Bonnet e una dal gruppo statunitense Lenox, cordata con un'azienda italo-rumena che si chiama Apulum. Questa cordata Lenox-Apulum è stata quella che è scelta dai liquidatori per poter partire con l'affitto dell'azienda qualora il tribunale avesse omologato la proposta di concordato. Perché tutto è precipitato? Ah, questa è una domanda alla quale non so rispondere, non ho visto ovviamente le motivazioni della sentenza. Ho capito che è stata respinta l'ammissibilità al concordato e quindi probabilmente nelle carte che sono state presentate al collegio giudicatore non hanno convinto i tre magistrati. Io sono in contatto fin da stamani con l'assessore regionale, con quello provinciale e con il Ministero dello Sviluppo Economico, speriamo con la Regione Toscana anche nelle prossime ore di poter incontrare anche il curatore fallimentare per capire come egli intenderà eseguire il proprio mandato, visto che la legge dice che prima di fare lo spezzatino delle aziende si deve cercare di piazzarle in affitto o in vendita in maniera complessiva. E nel pomeriggio un centinaio di lavoratori della Riccio Aginori hanno occupato l'area della fabbrica di Sesto Fiorentino. Già il sindaco al microfono della nostra Anna Marino ricordava le diverse trattative dei tre commissari liquidatori e ora tutto è affidato comunque al curatore fallimentare Andrea Spignoli. Anna Marino poco fa, la nostra Anna Marino, ha raggiunto anche Maurizio Barsella, che rappresenta il CUB, il comitato unitario di base, il sindacato della Riccio Aginori. Noi siamo sempre stati solidali, siamo sempre stati presenti ai presidi degli ultimi due mesi sostanzialmente e quindi parteciperemo anche noi alle iniziative. Fra parentesi, la Riccio Aginori è una fabbrica simbolo per Firenze e senza parentesi quello che sta avvenendo alla Riccio Aginori è molto losco, mi sia permesso di dire questo. Fino ad oggi una grande azienda americana insieme a una consociata rumena avevano, garantendo il quasi totale mantenimento dei lavoratori e addirittura nel periodo successivo uno stabilimento nuovo, avevano dato la possibilità e mostrato che potevano acquisire il marchio e acquisire direttamente l'azienda. Che cosa è successo secondo lei? Come si dice, un colpo di coda. Qualcuno evidentemente che è rimasto fuori, ma io dico non solo sul piano delle aziende che erano in corsa, ma io direi anche sul piano politico. Anche sul piano politico qualcuno che è rimasto fuori, qualcuno che evidentemente ha in testa di costruire al posto dello stabilimento Richard Ginori, che è in zona centrale, in questo comune accanto a Firenze, di Sesto Fiorentino. Quindi anche ipotesi avanzate appunto dal rappresentante sindacale Maurizio Barsella di la long manus della speculazione di chi vuole far fare l'azienda per utilizzare poi il territorio comprandolo a poco prezzo. Sul rapporto banche imprese vedo alcuni bancari che ci scrivono dicendo: attenzione, risulta il 50% delle imprese PME, delle piccole e medie imprese, che hanno ottenuto un credito, ma la percentuale è molto più bassa, perché ci sono molte imprese cui diciamo di no senza inserire la pratica, prima ancora di inserire la pratica. Quindi il 50% come dato è solo delle pratiche che vengono vagliate e poi uno dice sì o no. Capito? È come con il mercato nero o con il sommerso, è difficile fare una stima di quello che non hai detto, ma il ragionamento ci sta, può avere un senso. Se nemmeno si istruisce una pratica, il dato scompare poi, no? Il no che tu hai detto scompare. Ah, buona invece la giornata per le banche oggi in borsa. Basilea 3, Docet e soprattutto ha avuto l'impulso che ci si attendeva, allargando le regole di quello che le banche possono mettere come tesoretto per essere liquide in caso di uno stress improvviso, non solo roba di altissima qualità ma anche obbligazioni societarie, tripla B, azioni e quant'altro. Le banche festeggiano, ma festeggia più di tutti e per motivi suoi il Monte dei Paschi. Più 6,90% il Monte dei Paschi. Ciao Condina, Radio Colle Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera e buon anno. Buon anno a tutti. Che vuol dire, con oggi siamo sempre lì, 34-35% da Natale, ha festeggiato bene Natale, Capodanno, il gruppo Senese. Ciao. Assolutamente, già venerdì il gruppo aveva registrato un balzo molto significativo e già lì erano iniziate le prime speculazioni appunto su quello che dicevi tu prima, cioè su un allargamento delle maglie della normativa di Basilea 3. In più sul Monte dei Paschi c'è anche l'intervista rilasciata al Messaggero dall'amministratore delegato Fabrizio Viola, che ha confermato di fatto il piano industriale del gruppo, il fatto che il gruppo tornerà all'utile e che il forte piano di esodi che è previsto appunto per alleggerire il carico dei costi non sarà a carico della banca. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dopo aver affrontato il tema di Basilea 3. Buona notizia per le banche sicuramente, speriamo anche per l'erogazione del credito alle imprese. E il tema invece che di buono non ha niente, ossia il fallimento della Richard Ginori. Ci siamo lasciati con la borsa, ragionavamo sul Monte dei Paschi che va bene al di là di Basilea 3. Però Basilea 3 invece ha avuto un impatto positivo su tutte le altre banche: il Banco Popolare più 3,77, Emilia Romagna più 2,15, Unicredit più 1,80, Intesa San Paolo più 1,60, Banca Popolare di Milano più 1,30%. Male invece oggi ci accondina le cosiddette utilities, quindi chi si occupa di servizi gas, elettricità, acqua. Enel perde l'1,85%, Terna l'1,76%. Eh sì, male le utility, male anche il settore dell'energia. Sulle utility pesa un report emesso oggi da Deutsche Bank che analizza a 360 gradi questo settore in Europa e che sostanzialmente decreta il fatto che il 2013 potrebbe essere ancora un anno molto difficile per le utility e in particolare per quelle che sono esposte sulla generazione di energia. Il motivo è presto detto, con la recessione i consumi di energia, specie da parte delle industrie, tendono a rallentare e quindi chi produce energia tende ad avere margini sempre più risicati. Enel è il primo grande produttore di energia in Italia, perde l'1,8%, guardiamo all'estero, EDF, anch'essa penalizzata dal report di Deutsche Bank, lascia sul terreno il 2,5%, e in Germania due colossi come RWE ed E.ON hanno perso in borsa il 3% e il 2%. Ecco, a questo proposito e a maggior ragione fa notizia A2A, perché è una utilities, fornisce infatti la municipalizzata di Brescia e Milano, però guadagna l'1,90% oggi. Sì, A2A, ricordiamolo, dopo l'acquisizione di Edipower nel contesto del riassetto di Edison, è diventato il secondo produttore italiano di energia, rimbalza grazie alla convinzione del mercato che il consolidamento appunto di Edipower, che altro non è che un nucleo di 9 impianti produttivi, possa continuare a dare i frutti buoni dati fino ad oggi, diciamo che saranno già evidenti nella terza trimestrale. In più c'è lo spread a livelli molto bassi, A2A è un titolo molto indebitato e quindi l'abbassamento dello spread favorisce appunto la società. Ancora, tra i titoli negativi, di positivo c'è anche Mediaset più 1,90%, novità? Ma non particolari, però insomma il titolo da quando Silvio Berlusconi ha deciso di rientrare in campo ha guadagnato parecchio terreno. E ancora bene oggi Brunello Cucinelli, l'imprenditore che avevamo ospite ben prima che diventasse famoso e collocasse l'azienda in borsa, perché si ispira a Sant'Agostino, è uno di questi imprenditori che ogni tanto invitiamo con una visione etica e morale, se mi permettete, che non si limita alla sola gestione dell'attività d'impresa, ha diffuso i dati sul 2012, no? Sì, sono i dati diciamo preliminari, ha diffuso i ricavi netti che sono pari a quasi 280 milioni più 15%, poi soprattutto c'è la posizione finanziaria netta che praticamente si è azzerata, prima era negativa a fine 2011 per 48 milioni, il titolo ne ha subito risentito visto che era subito dopo pranzo, era attorno alla parità e ha chiuso quasi a più 3%. In assoluto tra i migliori e peggiori Ergi Capital più 27%, SNAI più 26%, ma che è successo su SNAI? Su SNAI non è segnalato nulla di particolare. IMSI più 18%, Bialetti più 18%, Premuda più 11%, Cattolica Assicurazioni più 7,80%, Alcatel Lucent più 7,24% e poi Monte dei Paschi. Fronte opposto invece per Intec Group sul risparmio, vabbè, meno 8,30%. KR Energy meno 4,60%, Beni Stabili meno 3%, Roma Calcio meno 3%. C'è un altro titolo però, anzi due titoli, la IMSI più 18% è la holding, cioè la società che controlla il gruppo di Colaninno, quindi il gruppo Piaggio. Qui c'è, si lega la vicenda che trattiamo fra pochi minuti, ossia la vicenda all'Italia, no? Sì, perché IMSI possiede anche il 7,1% di Alitalia, fa parte di quella accordata diciamo di patrioti tra virgolette, che aveva diciamo rilevato il 75% di Alitalia. Qui a breve scade il lock-up, cioè il vincolo che avevano questi investitori a non cedere le azioni, e quindi c'è chi scommette che Air France, sebbene la compagnia francese abbia smentito questa ipotesi, possa rilevare appunto dagli investitori italiani a premio queste quote, quindi certo. IMSI è sostanzialmente favorito da questa prospettiva. E poi vorrei chiudere con Telecom Italia meno 1,70%, qui restano le incognite anche sullo scorporo della rete e sulla cessione di Telecom Italia Media, quella che controlla il canale La 7. Eh sì, sono due dossier molto caldi, ma due dossier molto incerti. Per quanto riguarda la vendita della 7, poi ci sarà probabilmente, se non viene venduta, anche un impatto sul conto economico, e poi c'è, a cui poi è legata anche l'eventuale distribuzione di dividendi, e poi c'è anche la questione ventilata da alcune voci di stampa alla fine di settimana scorsa di un possibile nuovo intervento con un impairment test sugli avviamenti della società, cioè sulle attività immateriali. Cito anche, così concludiamo, Tods tra i titoli che hanno perso meno 2,11, Enel meno 1,80 come Snam e Autogrill, Atlantia, quindi l'ex autostrada per l'Italia, meno 1,60, Parmalat meno 1,5, Eni meno 1,40, Saipem meno 1,20%. Grazie a Ceo Condi nella Radio Cori, Sole 24 ore. E come già si annunciava, la vicenda d'Italia non solo fa muovere i titoli in borsa, nel caso specifico appunto la IMSI che ha il 7% dell'Italia, ma obbliga da un lato Air France a dire non c'è alcuna ipotesi, e la banca d'affari Lazard a dire non possiamo fare commenti. Perché? Perché, visto che, come ricordava anche Ceo Condina, il lock-up, il patto, la clausola per il lucchetto, per restare dentro l'azionariato dell'Italia, scade fra poco, si iniziano a fare i primi ragionamenti e a muovere le prime pedine. Facebook è invece il 349-238-6666 per i vostri SMS. Il prossimo 12 gennaio infatti scade il vincolo, il lock-up appunto, in cui i soci italiani potranno cedere le proprie azioni. E sia per i soci italiani sia Air France, sapete che quando fu tentato il salvataggio dell'Italia vi fu una cordata di 20 imprenditori, così, portabandiera, tricolori, e le ipotesi sono iniziate a circolare ben prima che venisse tirato in ballo il nome di Air France. Perché vi fu una prima ipotesi avanzata da Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, che addirittura le Ferrovie dello Stato sarebbero potute entrare nel capitale, di fatto rinazionalizzando in parte l'Italia, smentita sia dalle Ferrovie dello Stato di Moretti che di Alitalia. E quindi di Ragnetti, quindi insomma nulla di fatto. In realtà poi le ipotesi sono continuate, anche perché Air France ha il 25% dell'Italia e nel 2008 aveva messo sul piatto 2 miliardi e 400 milioni per farsi carico dell'Italia. Ricorderete la disputa di allora, Prodi che era a favore di una cessione Air France, Berlusconi contrario sul principio dell'italianità, e anche lì divisa tra virgolette l'Italia tra chi ritenesse più importante cedere all'Italia perché mal gestita e non caricarla sui contribuenti, o invece tenerla italiana perché un paese industriale come l'Italia non può non avere la sua compagnia di bandiera. E secondo le ipotesi circolate, Air France avrebbe già messo a punto un'offerta che darebbe ai privati, quindi ai 20 imprenditori, il 20% in più del miliardo speso nel 2008. Sul fronte italiano però si starebbe studiando la possibilità di aggregare le quote dei cosiddetti patrioti per consolidare l'italianità della compagnia. In ogni caso il salvataggio dell'allora governo Berlusconi, che incluse 3 miliardi di euro di soldi pubblici, io so che siamo in par condicio ma non posso raccontare la storia per la par condicio, si torna comunque al punto di partenza. Allora, la cronaca ce la racconta la Bibbia dell'Italia, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera. Mentre vorrei, ma dove sei? Su un aereo? Stai decollando? No, sto in mezzo al traffico quasi, quindi vabbè, mi sono fermato. Ecco, meglio così. E invece poi vorrei capire che cosa non ha funzionato in questi anni, ormai 4 anni, con Antonio Bordoni, che è autore di un libro che portammo in trasmissione allora, un libro che mi vedo molto bello, All'Italia agli anni dell'oblio. Raccontava come la compagnia di bandiera di successo degli anni 60-70, chi è che non ricorda Evita Perón tornare in Argentina scendendo dall'aereo all'Italia, sia stata lentamente distrutta, poi non posso ripercorrere la storia, e con un continuo avvicendamento manageriale che non ha reso possibile poi il perseguimento di alcuni piani strategici, ma soprattutto dovuto a interessi della politica, diciamola tutta, dai, perché all'Italia allora muoveva tanti tanti voti, soprattutto sul baricentro laziale romano. Antonio Bordoni, buonasera. Mi sente? Non mi sente Bordoni? Allora cerchiamo di prendere Bordoni, mentre con Gianni Dragoni vorrei capire: è solo il lock-up, la scadenza del 12 gennaio, che agita tutti gli spiriti? Perché oggi Air France ha smentito, ha detto

nel 2011 al 40%, cioè 40 su 100, sono 16 passeggeri in meno su 100 in 4 anni. Colpa di cosa? Delle low cost, di strategie sbagliate, al di là della concorrenza che sta facendo l'alta velocità su Milano-Roma. Bordoni? Allora, i risultati deludenti dell'Italia di questi 4 anni a mio avviso hanno un'origine molto chiara, cioè il fatto che l'Italia è rimasta una compagnia ibrida, non si è voluta unire a nessuno a parte l'alleanza con SkyTeam, proprio per la faccenda dell'italianità, per l'aspetto dell'italianità, e ovviamente tutto quello che oggi si può vedere nell'industria aerea è che o si fa sinergia o si soccombe. Adesso proprio il fatto che abbiamo voluto a tutti i costi mantenere questa Alitalia italiana fa sì che l'Alitalia in questi 4 anni, come dice lei, ha fatto risultati, cifre molto deludenti. Io vorrei dire soltanto una cosa, che se noi andiamo a vedere British Airways Iberia, Air France KLM o il più recente merger che c'è stato in Sud America fra la cilena LAN e la brasiliana TAM, tutti questi vettori che si sono uniti e hanno formato questi gruppi, in realtà hanno mantenuto la loro identità distinta, la nazionalità del vettore, il brand, i colori sociali non sono scomparsi. Quindi per favore adesso non ricadiamo nuovamente nella storia italiana o non italiana. Se rimane italiana non cresce, se si unisce a qualcheduno, Etihad, Air France o chi sarà, all'Italia potrà crescere e non è vero che perderà l'italianità. Ricordatevi pure che Lufthansa oggi controlla il 100% dell'ex vettore belga, il 100% di Swissair, della vecchia Swissair. Tutti e due questi vettori hanno mantenuto la nazionalità svizzera e belga proprio per il principio del principal place of business, ma volano con i propri colori e con i propri aeromobili dipinti con la livrea dell'ex vettore che era Swissair e dell'ex vettore che era una volta la Sabena. Che è un po', Bordoni, quello che accade nel mondo della moda, cioè se il gruppo PPR o Louis Vuitton Moët Hennessy compra un marchio italiano, che sia Bulgari, che siano altri, o Gucci, non è che poi gli cambia il nome, tiene il marchio italiano pur essendo il controllo e la partecipazione maggioritaria francese. E se ho ben capito lei ci sta dicendo, guardate che negli altri casi ognuno si è tenuto la sua bandiera, anche se è poi fuso in un'altra società, perché comunque quello è un vantaggio, perché l'italiano può voler continuare a volare l'Italia oppure no. E qui però introduciamo un altro tema, Gianni Dragoni, perché tu hai detto il vero tema è il lock-up che scade il 12 gennaio, cioè scade il vincolo per i soci a restare uniti, scade il 12 gennaio. A mio avviso sottovaluti il tema della campagna elettorale. Adesso oggi ci sono state dichiarazioni di Silvio Berlusconi e anche del PD, Mario Monti ha affermato non ci sono posizioni astratte o dogmatiche, bisogna vedere quali alternative e quali sono le prospettive economico-finanziarie di Alitalia. Berlusconi ha detto deve restare italiana, no ai francesi. Bersani ha detto è necessaria invece un'integrazione internazionale, quindi se si fosse fatta l'alleanza nel 2008 avremmo una situazione migliore. Berlusconi ha una grande responsabilità storica. Ricordo che è costata tra Bad Company e il resto 3 miliardi di soldi pubblici. Non temi che la variabile politica poi sia più forte della variabile societaria? La variabile politica può incidere, considerando che questa volta Berlusconi è molto più debole, almeno secondo le proiezioni, rispetto al 2008. Monti mi pare abbia una posizione di chi lascia capire non interverrebbe, almeno Bersani appunto mi sembra che sia d'accordo per l'integrazione. La variabile politica c'è, ma mi sembra che sia meno forte, e quindi no. Il tema è quello del valore, insomma, del prezzo. Secondo me il vero tema è quello del prezzo, che difficilmente potrebbe essere quello che i capitani coraggiosi o anche i patrioti forse vorrebbero, cioè un prezzo superiore, ben superiore a quello che hanno investito. Dunque le variabili sono parecchie. Bordoni, mi dica un'ultima cosa, abbiamo un minuto scarso, ma l'ipotesi che poi è stata smentita di un'integrazione con le Ferrovie dello Stato, cioè che di rinazionalizzare non è data in natura in altri casi? Cassa depositi e prestiti? Cassa Depositi e Prestiti, quel che mi è dato sapere, prende le aziende in salute sana, e purtroppo non è il caso dell'Italia. Ma quindi secondo lei la colpa più che della Milano-Roma è della mancata integrazione internazionale, ho capito bene? Ma assolutamente sì, perché l'Italia è rimasta isolata nel contesto internazionale, come ho detto, oggi o si fa sinergia o si soccombe. Ah, staremo a vedere, mi sembra di essere, cioè è impressionante il déjà vu storico, no? Perché si era in campagna elettorale anche allora, il tema era l'Italia, i candidati, più o meno siamo lì. Bravo, grazie a Gianni Dragoni e grazie anche a Antonio Bordoni. È un paese che non cambia, sto scherzando. Per carità, siamo in par condicio, invece un ultimo dato lo devo leggere. Il fisco ha fatto sapere che poco fa che sono aumentate le entrate nonostante la crisi. E voi direte, com'è possibile? Anche perché l'IVA è calata come gettito di 1.800.000.000 in 11 mesi. Grazie all'IMU, vedi un po', ma va, 378 miliardi in 11 mesi le entrate fiscali, più 4%, raddoppiato il gettito da bolli, più 3 miliardi in 11 mesi, e invece è calato anche l'entrata dai giochi, meno 6%, sono 800 milioni di euro in meno. Quindi grazie agli italiani che hanno pagato l'IMU, le entrate fiscali tengono e addirittura aumentano. E con questa buona notizia per il fisco e cattiva notizia per chi ha una prima casa, io vi saluto, vi do appuntamento domani, come sempre, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.